La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. E ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, una oretta per parlare di cinema e di tutto quello che c'è intorno, come sempre qui alla Rosa Purpurea, partendo dalle novità in sala di questo fine settimana. Fine settimana importante perché? Perché arriva un altro dei pezzi grossi di un cinema italiano rivitalizzato dalle feste di Natale in poi. Tanti nostri film che hanno avuto successo, davvero diversi fra di loro, da Tolo Tolo ad Amma Met, da Pinocchio al duo Ficarra e Picone, arriva nelle sale un altro film che promette molto e devo dire che mantiene anche molto di quello che promette, ovvero Odio l'estate, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo nelle sale cinematografiche italiane. Come sempre ne parleremo, ascolteremo un'intervista veramente singolare con Aldo, Giovanni e Giacomo, perché è stata fatta in un van, sembravamo una squadra di quelle dell'FBI dei film di spionaggio. E poi avremo Dolittle con il ritorno di un personaggio che fu reso celebre da Eddie Murphy alla fine degli anni 90. Avremo il biopic su Judy Garland, Judy, che ci racconterà Chiara Pizzimenti. E poi il giallo italiano con Villetta, con ospiti di Ivano De Matteo. Insomma, come sempre, tanto materiale. Giocheremo insieme con un altro grande classico del cinema da vincere in Blu-ray. E quindi prendete subito nota del nostro indirizzo di posta elettronica, la Rosa Purpurea, @radio24.it, perché fra poco vi facciamo ascoltare le consuete tracce misteriose. Cominciamo però con Dolittle. Dicevamo 1998, Eddie Murphy portava al successo il personaggio del dottore che parla agli animali in quell'edizione, apertamente comico, fortemente legato agli sketch, alle battute, addirittura con la traduzione dialettale delle voci degli animali che parlavano, uno in milanese, uno in napoletano, uno in romanesco. E adesso invece, 22 anni dopo, arriva nelle sale una nuova versione, veramente nuova, veramente diversa, che ha un grandissimo volto, quello di Robert Downey Jr. nei panni del dottor Dolittle, ma che si ambienta tanti tanti anni fa. Parla con gli animali. Lei è il dottor Dolittle. E allora, il dottor Dolittle, che è un medico che ha questo prodigio, questa facoltà incredibile di parlare con gli animali, che ha perso la voglia, si è depresso tantissimo quando la sua amatissima compagna Lily è andata via per un viaggio e ha fatto naufragio e non è tornata mai più, si chiude dentro il suo eremo, questo maniero con un sacco di terreno, di giardino, di alberi intorno, dove vivono appunto animali di tutte le specie, che lui ha praticamente trasformato in un Eden. Nessuno sembra in grado di poterlo tirare fuori di lì, tranne un ragazzo che gli dà una missione. Dovrebbe essere quella di salvare un piccolo scoiattolo. In realtà c'è qualcosa di molto più importante: salvare niente meno che la regina. E allora Dolittle si fa convincere e riparte in una nuova avventura, sgangherato più che mai, ma insieme a questa compagnia di animali parlanti davvero straordinaria. Noi salutiamo Boris Sollazzo e non c'è nessuna allusione agli animali parlanti. Ciao Boris. Beh, dottor Dolittle ha lo stesso talento che hai tu, parli con gli animali, e per questo insomma io sono qui in trasmissione. No, devo dire che forse è uno dei personaggi, noi lo conosciamo meno, ma più portati al cinema in generale, nell'audiovisivo, il dottor Dolittle, anche perché figlio ormai centenario di una penna felicissima che era per bambini, ma non solo, e di una storia che è una storia universale, no? Un po' la Jules Verne, perché Dolittle è un esploratore, sembra quasi il fratello di Phineas Fogg. C'è però anche quel rapporto con l'infanzia che sembra richiamare, no? Quella di Up, della Pixar, con un uomo che è stato indurito dalla vita perché aveva avuto tutto quello che desiderava, un Eden dove seguire la sua passione, dove vivere con l'amatissima moglie, e poi un naufragio che si porta via la moglie, la sua felicità, il suo entusiasmo verso la vita e verso la scienza e verso il suo talento. La donna che gli aveva dato questo maniero meraviglioso, che era la regina, a un certo punto, ma gravemente malata, gli dice che che deve, insomma, andare a cercare quell'albero dell'Eden che può salvarla, e lui di fronte alla regina deve gioco forza riprendere in mano i ferri del mestiere, riprendere in mano il suo vecchio entusiasmo e ripartire. E questo è un viaggio di formazione per lo spettatore che entra in questo universo animale, compreso l'essere umano, alla ricerca di una comprensione che ha del fantastico, ma anche qualcosa di estremamente realistico, e appunto un racconto sentimentale di come un giovane animale umano possa far risorgere l'amore all'interno di un uomo indurito. Downey Jr. Ha sempre creduto molto in questa storia, non a caso ne è interprete e produttore. La storia ha nel linguaggio cinematografico qualche piccola ingenuità, anche perché essendo un family movie non poteva essere altrimenti. Lui ci mette molto della sua sapienza recitativa, attoriale, non cercando mai di rendere retorico questo personaggio, ma dandogli una profondità che è proposta in maniera semplice ma non semplicistica. Ne risulta un'avventura che ha il suo ritmo, ha la sua bellezza, ha anche forse qualche passaggio troppo immediato, ma che funziona per un largo pubblico. Downey Jr. si conferma un animale da palcoscenico, cioè uno che la porta sempre a casa con il suo talento, aiutato anche da comprimari di valore e da questo talento straordinario che sembra così semplice, ma che dai tempi di San Francesco, insomma, parlare agli animali ha sempre colpito il pubblico. Non stiamo parlando di un capolavoro, ma stiamo parlando di un film che difficilmente dispiacerà qualcuno. Assolutamente, hai citato San Francesco, adesso non voglio fare similitudini, San Francesco d'Assisi, Franco d'Assisi, ecco perché parlavo con gli animali, l'hai detto anche tu prima, Boris, e quindi tutto torna. Grazie allora di averci raccontato Doolittle. Adesso resta con noi, fra poco parliamo di un film di grande impegno civile americano, si intitola Il diritto di opporsi. Prima però la viabilità. La rosa purpurea. Quando prendi un nero e lo metti nel braccio della morte un anno prima del processo, quando ogni prova della sua innocenza viene occultata e chiunque cerca di dire la verità viene minacciato, non è un processo, non è giustizia. Non vorrà mollare? No, signore. Era come guardare un fiume pieno di gente che annega e non avere un modo per salvarli. La tua vita ha ancora un valore. E io farò tutto il possibile perché non te la portino via. Il diritto di opporsi, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, ridiretto da Daniel Cretton, con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, Tim Blake Nelson. Un cast molto interessante per questo legal thriller di impegno civile, a sfondo diciamo civile, che racconta la storia di un avvocato, di un giovane avvocato afroamericano, appunto Brian Stevenson, laureato ad Harvard, potrebbe fare davvero una carriera splendida nelle ricche città della costa est degli Stati Uniti, e invece sceglie, almeno all'inizio della sua carriera, di continuare a difendere d'ufficio i condannati a morte in Alabama, molti dei quali, ed è una statistica vera questa, non hanno beneficiato di un regolare processo, molti di questi alla fine erano davvero innocenti, quasi tutti, guarda caso, neri come lui. Fra questi c'è Walter McMillan, appunto Jamie Foxx, nel braccio della morte per l'omicidio di una ragazza di 18 anni, bianca, un delitto alla quale è stato troppo conveniente dare un colpevole al volo, perché bisognava trovare un colpevole in fretta per tranquillizzare appunto la comunità bianca. Un film basato su una storia vera, raccontata appunto da Stevenson in un libro che si intitolava Just Mercy, esattamente come il titolo originale del film, che ci porta nei meandri, nelle viscere di un'America, real America, chiamiamola così, quella di Harper Lee, del buio oltre la siepe, quel mondo nel quale ancora i pregiudizi razziali sono ben lungi dall'essere superati. Un film solido, Boris, un film di quelli che vedi, di quelli nei quali fai il tifo per il bene, per la giustizia, nei quali ti si rivolta qualcosa dentro per il senso appunto invece di ingiustizia che coinvolge gran parte dei suoi protagonisti. Un film che non ha voli particolari a livello di regia, che però assolutamente un film importante. Solidissimo al punto da essere granitico, perché se si vuole proprio trovare un piccolo difetto a questo film è il il fatto di essere giustamente ideologico, è un film manifesto, è un film che porta una storia come quella che appunto tu citavi, quella del buio oltre la siepe, non è chiaramente tratto da quel splendido romanzo di Harper Lee, ma come abbiamo detto dal Just Mercy di Stevenson, però ne è debitore inevitabilmente come tutte queste storie, e non si è negli anni 50 ma si è negli anni 90, quindi è un film manifesto che ci dice che quel tipo di segregazione razziale, soprattutto nel momento in cui bisogna affrontare un processo, un ingiusto processo, c'è ancora perché c'è ancora la convinzione, soprattutto in alcuni posti come l'Alabama, l'ombrosiana, che il nero debba essere colpevole fino a prova contraria, e anzi spesso e volentieri non basta neanche quella prova contraria. È un film, dicevamo, giustamente ideologico, perché c'è da parte di attori e regista un punto di vista che è un punto di vista partigiano, un punto di vista fazioso, è il punto di vista di chi vuole sanare un'ingiustizia, è il punto di vista di quell'avvocato che sfruttando le quote nere potrebbe tranquillamente guadagnare in uno studio privato milioni di dollari, e che invece decide di consacrare pro bono la propria carriera a vantaggio dei suoi simili che spesso sono colpiti da queste ingiustizie. E il film va dritto come un fuso al suo obiettivo, perché deve raccontare la speranza di quel sogno americano che spesso è incubo, e sogno diventa solo nel momento in cui ci si risveglia da quell'incubo, perché qualcuno lo ha interpretato nel modo giusto, e quindi appunto un nero ha deciso di mettersi dalla parte sbagliata per poter portare la giustizia, e lo fa con degli attori simboli, quel Michael B. Jordan che è diventato una sorta di Eastwood nero, ha sempre meno espressioni ma sempre più una presenza scenica di grande impatto, e Jamie Foxx che è una sorta di marchio di garanzia per quanto riguarda questo tipo di racconti, è una sorta di nuovo Denzel Washington. Anche questo ci dovrebbe dire molto della ghettizzazione dei neri anche nel cinema, in quanto siano costretti comunque ad affrontare sempre un certo tipo di storia, e di quanto si sentano costretti anche ideologicamente a farlo. Il film potrebbe tranquillamente essere un film degli anni 50, 60, 70 per la solidità che qui dicevamo prima, un film classico, un film che sembra essere senza tempo, potrebbe essere girato in qualsiasi anno del dopoguerra, e questo però ci dovrebbe far riflettere su quanto questo mondo sia rimasto ancorato ai pregiudizi, agli stereotipi e anche alle ingiustizie che provoca il razzismo, che purtroppo è il male più difficile da estirpare. In tempi di pandemie quella è la peggiore, ed è quella che ci sta consumando da dentro. E questo era Il diritto di opporsi, straordinario anche la prova, devo dire, di Tim Blake Nelson nei panni del testimone bizzarro che a un certo punto dovrà provare a cambiare versione per cambiare la storia di questo processo. E noi giochiamo insieme, come avevamo annunciato, e cominciamo ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Lo so, può essere difficile a volte parlare con uno che non si conosce. Rilassati e dimmi che cosa hai in mente. Allora, un altro capolavoro per il nostro game di questa settimana, dopo la Marcord della settimana scorsa. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci se l'avete già individuato, di che film si tratta e il vostro indirizzo, insisto sempre su questo punto perché poi dobbiamo inseguirvi durante la settimana per dirvi se o che avete vinto. E allora, fra poco ascolteremo un'altra traccia del nostro film misterioso, adesso procediamo parlando di una grandissima stella della storia del cinema, della storia del musical, della storia del canto, una che volò davvero over the rainbow, si chiamava Judy Garland, il film è Judy. Mi scusi, è tardissimo. Signora Garland. La prego, mi chiami Judy. Sono desolato, ma la suite è stata liberata. Intende che se n'è andata? Aveva troppi arretrati. Ai bambini serve una casa. So di cosa hanno bisogno della loro madre. Non si può avere qui il più grande talento del mondo e non brindare. Frank Sinatra è qui. Frank è un grande, ma non è Judy Garland. È una Judy Garland ben lontana dagli smeraldi di Oz, quella che si trova a portare sul palcoscenico i figli minori per sbarcare il lunario. E neanche ce la fa. Difficile riconoscere la star di È nata una stella e la ragazzina del Mago di Oz in questa donna pelle e ossa devastata dalla vita. Sono passati 30 anni dal film che ne fece una star e sembra che il tornado sia passato sulla sua esistenza. l'esistenza. Quattro mariti non le hanno portato la felicità e l'unico pensiero positivo sono i figli più piccoli che il padre vuole tenere con sé. Ti prego. No, Sid. Judy. No. No. Sto lavorando così tanto che tu neanche te lo immagini. Davvero? E in questi giorni mio marito sta trattando un accordo per me che rappresenta un nuovo inizio. Tu non mi ascolti. Ho una persona su cui contare adesso. Una persona che mi aiuta a farli i soldi invece di buttarli alle cose. Presto acquisterò una bella casa e loro verranno a vivere con me. Non li porterò più sul palco. Non li coinvolgerò più in questo mondo così fasullo e voglio che neanche si avvicinino ai bastardi che lo gestiscono. Ma tu devi permettere che vivano con me, Sid. Sono un'ottima madre. È proprio per riaverli, lo dice lei, che ha accettato una tournée a Londra. Deve cantare i suoi successi sera dopo sera e ogni serata è un'agonia. La diva è impossibile, come era stata annunciata, ma non sono i capricci. È dipendenza dall'alcol e dalle pastiglie che, ci mostra il film, sono il suo unico cibo fin da quando era una ragazzina alla mercé della MGM, che non la faceva mangiare e la imbottiva di pillole per nutrirla e farla dormire a comando. Schiava di Hollywood. Ok, ci siamo ragazzi. Che le succede? Non ce la faccio. Cosa? No, che vuol dire non ce la faccio? Il pubblico aspetta di sentirla cantare. Ho la gola secca. No, sarebbe un disastro. No, mi ascolti. Non ce la faccio. Andrà tutto bene. Coraggio, in scena. L'enorme talento e il peso che Judy si porta dietro. E il film sembra voler condannare Hollywood per quello che le ha fatto, cercando di avvicinare lo spettatore a lei, un'empatia che non arriva nel film di Rupert Gould. Lo spettatore non soffre insieme a Judy, piuttosto vede la sua sofferenza nell'interpretazione di Renée Zellweger, già premiata con il Golden Globe e vicina all'Oscar, che è talmente letterale da sembrare finta. Costruita a tavolino, per nulla intima come avrebbe voluto essere nelle intenzioni e senza attorno nessuno all'altezza. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Judy, il film con Renée Zellweger nei panni di Judy Garland. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo, parliamo di Odio l'estate, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo e sentiremo l'intervista nel van con il trio di comici milanesi, fra poco. Salve a tutti, da Massimo De Donato vi aspetto ogni sabato alle 22 a Strade e Motori, lo spazio di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cercheremo di capire come sta cambiando questo mondo, quali automobili vedremo sulle strade nei prossimi mesi, qual è il futuro delle motorizzazioni tradizionali e come l'auto elettrica cambierà le abitudini degli italiani. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, sul sito di Radio 24, nella sezione auto, video, clip, i test su strada, le immagini e le schede dei nuovi veicoli provati. Strade e motori, ogni sabato alle 22 su Radio 24. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi mi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. La rosa purpurea. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Noi siamo gli affittuari. Signore, cosa c'è di più dolce che una bella vacanza tutta assieme? Maledetta, maledetta. Ma cos'è che succede? Quando fa caldo, la G non va. Ci sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole. E non andrà proprio così questa vacanza, almeno non andrà così all'inizio, ma poi le cose piano piano si aggiusteranno. Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo, tornano davvero in grande splendore con Odio l'estate, il ritorno tra l'altro alla regia dopo una quindicina d'anni di un loro film di Massimo Venier. Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast, ma anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, straordinarie protagoniste femminili insieme a Maria Di Biase, e poi un cast di giovani, giovanissimi, i ragazzi che fanno i figli delle tre coppie, davvero cast molto azzeccato, e comparsa di Massimo Ranieri e soprattutto ruolo tutto da ridere di Michele Placido. La storia è presto detta: tre famiglie milanesi che rappresentano tre strati sociali e tre modi di pensare molto diversi. L'Aldo proletario è anche un pochino, diciamo così, malato immaginario, poi il bottegaio Giovanni, che alle prese però con la crisi, precisino fino al millimetro, avete sentito, regole e la sua parola d'ordine, e poi Giacomo, dentista di successo, con la moglie un pochino nevrotica. Partono e hanno affittato senza saperlo la stessa casa, la stessa villa, lo scoprono lì in Puglia, davanti allo splendido mare di Puglia, però tutti e tre pensano di poter entrare e di avere diritto di essere da soli in quella casa. Il maresciallo dei carabinieri Michele Placido gli dirà: fate una bella cosa, avete sentito, fatevi una bella vacanza insieme, all'inizio non sarà per niente bella, poi pian piano le cose miglioreranno anche cinematograficamente, devo dire, perché in questo film, che a me ha ricordato tantissimo un Chiedimi se sono felice 20 anni dopo, c'è la qualità della comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma c'è anche un velo di malinconia, c'è sicuramente un fare un punto e tornare indietro a pensare a quei personaggi, a cosa sono / siamo diventati. È forse, oso dire, il miglior film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Boris, non so come la pensi tu. Sono vicino a quello che dici, non ho ancora deciso, perché è troppo forte l'iconicità dei primi film per detronizzarli, insomma, dal mio podio, ma sicuramente, appunto, se non è il migliore, è comunque va a medaglia, ecco. È interessante perché dopo anni, tra virgolette, di decadenza comica e strutturale dei loro film, ritrovano tutto a un tratto, e non può essere un caso che l'abbiano ritrovata reincontrando Massimo Venier, che è un regista sottovalutato, ma dalle grandi doti e con la capacità quasi unica di capire lo spirito, la forza e il ritmo della comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, trovano veramente una felicità. È come se Tre uomini e una gamba incontrasse Ferie d'agosto col mood di Chiedimi se sono felice. Il risultato è esilarante, anche perché ritrovano la capacità di costruire dei comprimari di alto livello. Le donne sono fantastiche, c'è una Di Biase di cui vi innamorerete, c'è un Michele Placido che forse non ha capito che in questa, tra virgolette, terza età, il ruolo di commedia potrebbe essere la sua nuova giovinezza, insomma, l'avevamo capito fin dal cameo nel Caimano e lo capiamo anche qua. Massimo Ranieri è un'occasione persa per il cinema, ha fatto delle cose meravigliose, e se decidesse, insomma, di tornare a recitare sarebbe meraviglioso, l'abbiamo visto anche con Roberta Torre. Ma come dicevi tu, la forza di questo film sta nel fatto che tutto ad un tratto loro sono tornati loro stessi, senza però dimenticare che sono passati tanti anni e che si può e si deve anche guardare alla vita in maniera diversa, anche facendo un punto, facendo un bilancio, anche accettando nella loro comicità non solo l'estro straordinario, l'imprevedibilità, la follia, la locura, direbbe Valerio Breha in Boris, ma anche la malinconia, che è uno stratagemma comico straordinario, soprattutto se sincera, e questo forse lo rende di sicuro il film più strutturato, più ambizioso, più complesso di Aldo, Giovanni e Giacomo, e forse, come dici tu, anche il migliore. La cosa più bella è averli ritrovati, quando proprio nel momento in cui pensavamo di averli persi. Assolutamente d'accordo, dopo Reuma Park qualche dubbio era venuto. Odio l'estate è partito fortissimo al botteghino, è subito primo nel primo giorno di programmazione, quindi aspettiamoci comunque anche grandi risposte al box office. Ma ascoltiamo soprattutto questa intervista surreale, perché ci siamo sentiti con Aldo, Giovanni e Giacomo, ci vediamo qua, ci vediamo là. Alla fine il luogo è stato un van nero con i vetri oscurati, dove nel salottino posteriore abbiamo realizzato queste quattro chiacchiere. Allora, intervista in un van. Giuro che in 30 anni mi è capitata una cosa solo diversa, forse anche un po' diversa, in un ascensore con Siani, e il film è andato molto bene, quindi questo bene, volevo dire, cioè questa cosa qui sembriamo agenti dell'FBI che ci mettono in coda Federal Bureau. Bureau, esatto. Allora, Aldo, Giovanni e Giacomo, grande piacere rivedervi qui alla Rosa Purpurea, anzi qui in questo van che non è una Subaru Baracca, devo dire, no, un van super accessoriato, bellissimo. In questo momento il van è una Rosa Purpurea. Come sei poetico. Per raccontarci questo Odio all'estate, un film che ha lasciato davvero tutti, sembra tante volte un modo di dire, no? Ha lasciato tutti felici. Cioè, devo dire che la gente che l'ha visto, con cui l'ho visto, è stata molto molto colpita positivamente, perché parto da qui, 20 anni dopo, chiedimi se sono felice, esattamente 20 anni dopo, mi viene da dire che potrebbe essere un richiedimi se sono felice o chiediti se sei felice, un po' un... È un sequel. Un po' dei sentimenti, sì. Sì, sì, portato dietro quella magia lì, sì, sono d'accordo, anche se è un film completamente diverso. Però parla sempre dei temi dell'amicizia, poi ci sono altri temi che lui sa esprimersi meglio di me. Io parlo bene lo spagnolo, ma... basta mettere la S. Sì, esatto, è così. Ma è cambiato perché semplicemente siamo invecchiati di 20 anni e quindi anche le storie sono più plausibili se portano dentro storie di famiglie, di adolescenti, così come nella vita anche i nostri personaggi hanno 20 anni di più e hanno i problemi a volte del logorio, delle relazioni matrimoniali, delle difficoltà dei rapporti con i figli, l'incomunicabilità e poi... Il grosso tema di cui è esperto Giovanni è la diversità tra le persone, che a volte può essere un ostacolo, ma lui ti dirà che invece... Ce lo dice se trova le parole, però. Eh beh, certo. se no inizio e poi mi fermo. Mi fermo e buonanotte. A fare cerchi nell'aria. Gliele suggeriamo. Gliele per radio non è che... Non si vedono i cerchi. Esatto. No, diversità perché queste tre famiglie sono così diverse, così distanti, chiaramente fanno muro tra di loro all'inizio, perché la diversità si tiene sempre un po' lontano, ti fa sempre un po' imbarazzo, e invece poi la conoscenza apporta addirittura non solo miglioramenti ma qualcosa di più a tutte le tre famiglie. Adesso, mentre parlavo, mi ha fatto venire in mente che la diversità... L'altro è diverso perché tu hai paura, cioè comunque fa parte di sbloccare dei nodi che hai dentro. Difatti siamo sempre sulla difensiva, no? E in questo film, in special modo la Lucia Mascino, c'è un cambiamento in particolare in cui è molto dura, è molto rigida, è molto legata con se stessa. A un certo punto perdona e si sa perdonare, e in lei c'è questa forma di dire: ma sì, non esiste la diversità, esiste solamente la paura. Melissa, fare rumore che disturbi la signora. Non c'è problema. Ilari, la colazione. Avete anche, secondo me, rispetto sempre a Chiedimi se sono felice, quei personaggi che siete sempre voi, poi hanno forse anche un po' meno speranza, un po' più di disillusione. Forse qui c'è anche un po' più di lettura, no? Amara. Sì, ma sì. Forse eravamo un po' più goliardici, se si può dire così, perché appunto 20-25 anni di meno, la vita ti puoi permettere di scherzare un po' di più... Mentre adesso, come dicevi tu, bisogna fare i conti con il fatto che abbiamo varcato tutti la 60ina, quindi le problematiche sono altre, e soprattutto come nel finale del film, che non si può rivelare, no? Però insomma, siamo tutti alle prese con una cosa molto particolare, e necessariamente sei costretto anche tuo malgrado a tirar fuori la poesia o il senso delle cose. Certo. Che hai in te. E in effetti, senza spoilerare, come si dice, però in questo film avete anche fatto alcune scelte anche estetiche particolari e coraggiose, cioè è un film chiaramente che si pone a un pubblico grandissimo, ampio, molto ampio per spessore, lo vogliono vedere i bambini e i nonni, però dove avete messo in scena per esempio dei nudi femminili in una certa scena in maniera bella, brillante, libera, esatto. E quanto è stato vostro, quanto è stato di Massimo questa voglia di metterci anche un po' queste cose, cioè la canna che si fanno, insomma, un po' di cose. Devo dire che siamo tutti d'accordo, però l'hai nominato e gli va dato un merito enorme a Massimo. Intanto siamo contenti del ritorno dopo 15 anni. Non siamo particolarmente fortunati, secondo me, quando siamo diretti da lui, che ci conosce fin dai tempi di Mai Dire Gol. E quindi anche lui è cambiato in questi anni, è molto migliorato e si vede, come lo facevi notare tu, è riuscito con molta delicatezza e allegria, se vuoi, a proporre delle cose. A mostrare anche tre nudi femminili che nei nostri film non ci sono mai stati. Esatto. Un'altra cosa, per una volta, forse non la prima, ma a memoria neanche tante volte è successo che vi siate staccati da Milano, cioè che il milieu, come dicono quelli che se ne intendono di questo film, è la Puglia, probabilmente, anche se è una Puglia ideale, non è un posto che si dice è quel posto lì, però insomma lo è, ed è la vacanza, quindi qualcosa che vi astrae dalla città. Quanto ha contato questo nell'equilibrio della riuscita del film? Una casa di vacanza condivisa da tre famiglie, quindi era per forza una casa di vacanza. Però forse mancava anche lo stress della città, anche la vita ciclica. Però diciamo che i tre se lo portano dietro per una prima parte del film, prima di liberarsi. Sei un limbo dove ti puoi permettere di fare una rivisitazione su quello che stai passando, su quello che stai vivendo, su tante cose che ti vanno bene e non ti vanno bene, eccetera. E quel limbo lì è ulteriormente problematico per il fatto che incontri delle persone che comunque non vorresti incontrare, vuoi mettere a posto le tue piccole cose. In realtà poi l'unione fa la forza, insomma tutti si mettono a posto grazie al fatto che ci sono tutti. Appena possibile invertire il senso di marcia. Hai capito? Appena possibile invertiamo il senso di marcia. Appena la carreggiata lo consente. E vabbè, andiamo avanti a Blibiton. Appena possibile invertire il senso di marcia. Ho capito! Cos'è? Stiamo ormeggiando un piroscafo. Ascolta, questa è una macchina di una certa dimensione, non è una scatoletta di tonno, capisci? Ci vuole una certa cautela, no? Certo. Riguardo. Compriamo le macchine grandi e poi non le sappiamo guidare. Vi è capitato mai, sicuramente avrete fatto delle vacanze insieme, immagino, in tutti questi anni, però di avere situazioni di frizione, come dire, cioè dove la convivenza potesse essere un elemento da cui in qualche modo doversi difendere, no? Ma noi siamo stati talmente tante volte insieme, anche i primissimi anni dello spettacolo, quando si girava in tournée, si dormiva spesso anche in camera insieme, che ci siamo abituati pian pianino a sopportarci e anche a star bene insieme, no? Però credo che siamo ormai diventati bravi a prendere le misure. Sì, penso. Beh, di sì. Comunque, a parte noi tre, parlando di generale, eccetera, ogni tanto magari capita che dici ancora due giorni e se ne va. Sicuro, quindi resisti, e quando, quando va via dice brindiamo. Certo. Altra cosa che funziona secondo me meravigliosamente sono tutte le figure, diciamo, altre che non siete voi tre. Intanto le tre donne, le tre signore, le tre ragazze, fatemi dire, che sono splendide, hanno dei tempi, un equilibrio straordinario che funziona benissimo. I ragazzi, i figli, i due adolescenti sono una vera e propria scoperta, e il bambino ha delle battute che sono favolose. E poi Michele Placido, che fa questo maresciallo maneggiore dei carabinieri, quanto era scritto così e quanto invece ci ha messo del suo Michele. Cioè, allora posso dire che mi ha ricordato un film di De Sica tempo fa, in cui c'è la Lollobrigida e c'è questa nutrice che va a far nascere i bambini e lui la porta in bicicletta in giro ed è una maestrina, e poi alla fine si innamorano e c'è questo fuoco d'artificio nella piazza. In qualche modo mi ha ricordato quella. Sì, ma è fantastico quando dice, cioè, non vede l'ora che se ne vadano i turisti. Sì. Quella è la sua isola, quindi il pensiero di tutti gli autoctoni che vedono arrivare migliaia di turisti non ne possono più, non se ne vogliono liberare. Assolutamente. No? Allora, per chiudere su Odio l'estate, un periodo dell'anno, come diceva prima Aldo, che è abbastanza cruciale, perché finalmente sei solo con te stesso a volte, o solo con gli altri come in questo caso, e però hai tempo per pensare alle cose che di solito ti fa scivolare. Che lavora 24 ore su 24. Ma diciamo che abbiamo pensato all'estate per diversi motivi, perché può ingenerare tanta frustrazione, tanta rabbia, tanta delusione. In realtà quell'estate lì è un'occasione per tutti quanti di ascoltare Massimo Ranieri in un concerto all'aperto, che non potresti farlo d'inverno, questo esatto. Sicuro. E poi soprattutto di rendere verosimile la battuta che dice Aldo, e cioè che anche nei momenti più brutti della tua vita, se li passi con certe persone è meglio. E diventi campione mondiale del mondo del Massachusetts. Assolutamente sì. Allora, odio l'estate, Aldo, Giovanni e Giacomo, bravi, complimenti, grazie di essere stati qui con noi alla Rosa Purpura nel van. Ciao, grazie a tutti. Capitolo 1, frigorifero. Per favore, non mischiamo i cibi, che si vede occhio nudo, abbiamo alimentazioni diverse. Allora, un minimo di attenzione. Stavo spiegando. Cosa ho detto? Che ci vogliono le regole. ridiamo. Ridevano anche i Maya e si sono estinti. Che c'entrano i Maya? Non niente. Mi piace fare esempi. Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l'estate, il loro nuovo film al cinema, la nostra intervista. Linea adesso alla viabilità, fra poco torniamo, c'è un altro film di cui parlare, Villetta con ospiti. Boris Sollazzo rimane con noi e poi ancora il nostro DVD Game. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. La Rosa Purpurea. Questa è una cittadina così piccola, si sa tutto di tutti. Ma cosa stai dicendo? Nessuno entra in prigione. Mi fa schifo quell'uomo. Non vedi cosa fa? Mi fa paura. A me piace, sei tu che mi fai paura. Certe cose è meglio non dirle. Non dirle mai. Villetta con ospiti di Ivano De Matteo ad aprire il quarto blocco della Rosa Purpurea, l'ultimo film che vogliamo segnalarvi per questa settimana, perché è un ritorno importante a un giallo classico proprio italiano, diretto da Ivano De Matteo, regista sempre molto interessante, con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blank nel cast. Una storia ambientata in un imprecisato paesino del nord-est, cittadina del nord-est, famiglia altoborghese, che detta un po' le regole, come capita in questi casi nel territorio. Una donna che è l'ereditiera di questa ricca famiglia, che è una donna fragile, che cerca di dare un senso alla sua vita con opere di bene a favore della chiesa, impersonata da questo Don Carlo, che è un prete che però, diciamo, ha anche un debole per le donne che frequentano la sua parrocchia. A un certo punto, in questo clima, che è un clima inizialmente quasi da commedia tutto sommato, subentra un'irruzione, i carabinieri darebbero un'effrazione dentro questa villetta e le cose non saranno più le stesse, anche il film non sarà più lo stesso, il clima del film cambierà completamente, Boris. In questo regia abbastanza particolare questa di Ivano De Matteo. Il solito Ivano De Matteo, ma lo dico senza rimproveri, perché lui veramente è quel tipo di regista che, pur raccontando la stessa storia sempre da uno sguardo diverso, sempre da un lato diverso, ma che si incentra sempre sui vizi privati e le pubbliche virtù, in particolare della borghesia, ma non solo, della nostra società, riesce sempre a raccontarci qualcosa che gli altri non hanno il coraggio di mostrarci. L'unica cosa che ti ti viene in mente, visto il carattere programmatico del film, è che questo è un bel film, sarebbe stato ancora più bella come rappresentazione teatrale, visto che ci sono una serie di simbologie, quasi tutti i personaggi rappresentano un vizio capitale, tutto ciò che succede risponde a una visione molto chiara, anche nobilmente ideologica del suo regista. E sostanzialmente, no, se si fosse chiamato invece che Villetta con ospiti, quelli che ben pensano, come la canzone di Frank Energy, non avremmo trovato niente di strano, perché quello che troviamo appunto è il signore e signori di Germi, è il capitale umano, cioè quella provincia che produce ricchezza, che produce rabbia, che produce un sistema di potere che è corrotto, ma che ha una patina di bellezza, di tranquillità, di politicamente corretto, che non corrisponde a quello che dice proprio la Cescon, no? Certe cose non si dovrebbero dire mai, si possono fare, si può arrivare al massimo dell'abiezione, ma verbalizzarle, farle salire, farle venire a galla, è la corruzione del sistema, è la contraddizione del sistema. De Matteo ci mette la sua regia muscolare, non fa mai 0-0, non lo fa neanche scegliendo gli attori sono volutamente iconici, pensiamo anche alle frasi che vengono messe in bocca a Marco Giallini, in alcuni momenti è così disturbante verso ciò che ben pensiamo che ci sembra quasi implausibile, la realtà è che non vogliamo riconoscere a noi stessi che in certe dinamiche forse ci siamo finiti anche noi, ed è sempre il modo che ha De Matteo di proporci il suo cinema, cioè di dirci quello che non amiamo sentirci dire. Il risultato è interessante, come dicevo, forse troppo teatrale, questa è l'unica cosa che in alcuni momenti rende macchinoso il film, ma nel complesso secondo me i film di Ivano De Matteo vanno sempre visti, perché ci portano a un livello di consapevolezza, di emersione dell'inconscio collettivo che è davvero una sfida per lo spettatore. Lo spettatore non deve avere paura, ci si deve confrontare, perché siamo tutti contorniati da perfetti sconosciuti che hanno degli scheletri nell'armadio e spesso stanno in una villetta con ospiti. E questo era l'ultimo film di questa carrellata, di questa settimana in sala Villetta con ospiti. Grazie Boris, ci sentiamo la settimana prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. Dobbiamo ancora giocare insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Lei era ancora molto giovane, non più di 17 o 18 anni. E lui era assai più vecchio. E allora la nostra clip, il film misterioso, dovete indovinarlo, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due Blu-ray che vi aspettano e che fra poco sveliamo. Invece, 7 giorni fa avevamo giocato così. Risalta fuori il delfino, in, mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice, mamma... E allora era Mark Ord, lo avevamo svelato, i nostri ascoltatori che sono stati più bravi, più veloci, che vincono il Blu-ray di Mark Ord, di Federico Fellini, sono Nicola Branchini di Ferrara e Adriano Fastelli di Roma, centenario felliniano, 3 nuovi Blu-ray, tra l'altro che arrivano con nuove edizioni, appunto anche 8 e mezzo e La Dolce Vita, oltre ad Mark Ord, ma di Mark Ord in questa nuova edizione ci facciamo parlare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV, ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, in DVD e Blu-ray arriva la versione restaurata di Mark Ord. Siamo in Romagna negli anni 30 e l'adolescenza di Titta si mischia alle vicende della famiglia e dei particolari personaggi che popolano Rimini. È l'ultimo atto della trilogia della memoria dopo i clown e Roma. Mark Ord è un titolo in dialetto romagnolo che è diventato un lemma del vocabolario italiano e già acquista tutta la capacità di Fellini di incidere sull'immaginario popolare come nessuno mai prima e dopo di lui. È 4° Oscar per il regista, campione di incassi dentro o fuori dall'Italia. Un ricordo che addolcisce, che sfuma continuamente il confine tra realtà cruda e sogno mitico, mentre il fascismo non è solo e non tanto quello storico quanto quello innato nella psicologia del nostro provincialismo adolescenziale che ieri come oggi guarda sempre all'uomo fuori per essere condotto. E quindi il nostro game della settimana scorsa dedicato a Federico Fellini. Giulio, diamo sempre un'occhiata alle segnalazioni dai palinsesti della prossima settimana con un film abbastanza recente che però un po' anche rivelato un regista. Stiamo parlando di Scappa, Get Out, giovedì 6 febbraio su Italia 1 alle 21:20. Sì, Chris e Rose sono fidanzati, lui è nero, lei bianca. Quando arriva il giorno del fatidico incontro con i genitori di Rose, Chris è titubante e devo dire ha ragion veduta. Allora, da quanto va avanti questa cosa? Tu fumi di fronte a mia figlia? Smetterò. Potrebbe occuparsene lei. Come? Ipnosi. Aggiornamento horror, scusate la remoscia di Indovina chi viene a cena, Scappa Get Out è un film Blumhouse, cioè un film girato con pochissimo budget, che però fece grandi incassi e che nasce sulle belle parole del progressismo bianco borghese, a parole multiculturale, sul suo soggiacente razzismo strisciante. Jordan Peele viene dal comico, ma il film è una satira a mano armata e a altissima tensione e fa paura, e non solo per quello che racconta. Peele poi farà il più ambizioso Noi, Us, e ora saprà arrivare con una serie Hunters su Amazon Prime. E questo era Scappa Get Out, giovedì 6 febbraio Italia 1, ore 21:20. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Ed eccoci giunti allora alla fine della nostra trasmissione. Come sempre l'epilogo spetta allo svelamento del film misterioso di oggi. Si trattava di Paris, Texas di Wim Wenders, nuova edizione in Blu-ray, ne parleremo la prossima settimana e annunceremo anche i vincitori. Per il resto, buon cinema in tutto questo weekend, noi ci risentiamo sabato prossimo alle 18:00.